我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 用年轻的心演绎古典，古典中的流行 Pops 音乐。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月，请欣赏久石让的音乐作品，曲目有《生命之风》、《广告曲》、《花火》、《幻想曲》、《东方之风》、《天空之城》、《天使的音乐》、动画片《红猪》配乐、《风之森林》，还有日本卫视周五新片特约放映片头曲，以及电影《坏孩子的天空》、《夏日》、《人生的旋转木马》等。 Thank you. Thank you.

请欣赏美声绅士组合演唱的歌曲《誓言》《爱的力量》慢版《世界的曙光》《深陷爱恋》《安吉丽娜》《赢家所有》《月亮》《他》 protegeré de tus miedos. Soy tu príncipe azul, ángel del cielo. No hay más que temer. Hoy como ayer, siempre me vas a tener. Solo importa tu amor, dámelo. Aquí estoy. La fuerza mayor está en el amor. Es interior. La meta es darlo. Deberás mostrarlo. Sin razón, con el corazón. Yo prometo que te cuidaré y para amarte solo viviré. Ahí estaré con este inmenso amor que yo siento por ti. Y nunca llorarás, tú serás lo único. Es un tesoro, un gran regalo. Solo importa tu amor, dámelo. Aquí love me. giro come vorrei momenti che si sfogliano tu sola con me sarai persa in questa forza che ormai si avvicina nel cielo nel sole ti offro questa vita e questo cuore sincera la promessa resterà chi ti delle stelle seguirò dove ci sei un mare lì attraverserò c'è ogni movimento che soffia quella tua fragilità sul mio destino nel cielo, nel sole, ti porto questa vita e questo cuore, sincera, la promessa destina, e qui ti aspetto. Fermerò, per sempre cercherò, non respirerò, musica che ho, un canto dirò, una melodia se sei mia. Quest'anima senza cuore aspetta te ad agio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò. I'm sorry.

Se io potessi avere ciò che voglio già da un po', che sogno da quando ero bambino. Se tu mi permettessi poi che riempie i giorni tuoi di emozioni e mille sorrisi. Se noi riuscissimo io e te a accettare che diversi siamo meglio noi, mi arrenderei, io solo chiederei la luna io e te. Di follie, conoscere decine di cuori, poter uscire o non uscire, mangiare o non dormire, mai non è male che preferire. Io solo chiedo la luna io e te. E corra quanta di me vorrai tanti per te e chiedi da quando eri bambina. E tu, chissà chi l'aria d'estate che ora c'è è il primo autunno su di me. Sì, la schiavitù, la libertà, il dubbio, la serenità preludio a giorni luminosi oppure bui. Saranno specchio dove io rifletterò progetti e idee, il fine ultimo che avrò da ora in poi. gente imprevedibile. Sì, forse l'amore è troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che vivrò. Passato torna a me per starmi accanto fino a che prendono forma i sogni miei, ovunque vada arriverei, ma passo a passo accanto a te. el aire que me hacía respirar. Te extraño, ¿por qué me haces daño? Es imposible, aunque lo intente, olvidar. De quererte así me voy a enloquecer. Moriría si me dejas de querer. Amor, venme a buscar. No lo ves, no puedo más. Todo es tristeza desde que no estás. No seas cruel, perdóname. Nunca se resignará mi corazón a perder tu amor. Te amo, tú me decías llena de felicidad. Lo entiendo, no lo comprendo. ¿Cómo me puedes herir así y abandonar? Te conozco, sé muy bien que hay. Otra vez seamos dos. Amor, venme a buscar. Te necesito, no lo ves, no puedo más. Todo es tristeza desde que no estás. No seas cruel, perdóname. Nunca se resignará a perder tu amor. Vuélveme a buscar. Sálvame del castigo de no tenerte un día más. Voy a enloquecer si me dejas de tan perdido por ti. seré mejor de lo que soy. cuando el sol cae un día más, sé que no quieres dormir. La pasión nos vuelve a desnudar, porque sin ti yo no sé vivir. Y en la oscuridad enloquece a un hombre y una mujer. La vida sin amor es un fuego sin pasión. La vida sin amor no sirve a mi corazón, pues olvidé amar. Lágrimas solo sabe huir, dejando atrás todo mi sufrir. Y en la oscuridad y el sobrepié, el alma calma su ser. La vida sin amor es un fuego sin pasión. para ti no hay otra de debes cuidarla, evitar hacerla llorar. Si te comprendes,